con riforme per aumentare il potenziale di crescita e l'occupazione, con un'attenzione speciale a quelle misure che possono avere un effetto più immediato, soprattutto a favore dei giovani e dell'occupazione femminile. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha sfidato venerdì 2 marzo la Commissione europea e le ferree direttive di Berlino, annunciando per il 2012 un deficit al 5,8% del PIL, nettamente superiore al 4,4% concordato dal suo predecessore, il socialista José Luis Zapatero. Una deviazione dal target di deficit della Spagna definita grave. Da Amadeu Altafaji, il portavoce di Olli Rehn, che ha ricordato come a novembre la Spagna avesse comunicato uno scostamento del 2%, che ora è diventato il 2,5%. Il portavoce ha comunque affermato che la situazione spagnola non è comparabile a quella della Grecia. Sentiamolo. La posizione della Commissione resta immutata. Riteniamo che la piena attuazione degli obiettivi sui conti pubblici sia una pietra miliare nella risposta alla crisi, specialmente nei paesi sotto osservazione dei mercati, come la Spagna. Gli Stati membri devono continuare a rispettare gli impegni e le regole del patto di stabilità e crescita. Non penso che si possa paragonare la situazione spagnola a quella greca. In Grecia c'è stato un problema di cifre. I dati sul deficit non erano validi. C'è stato bisogno di creare, con l'aiuto di Eurostat, una nuova agenzia statistica nel paese. Fortunatamente, da novembre 2010, le statistiche greche sono in linea con gli standard europei. La Spagna oggi non ha un problema di credibilità dei dati. Non abbiamo motivo di dubitare delle cifre spagnole. Quello che constatiamo è che fino a novembre scorso ci si diceva che la Spagna sarebbe andata un po' al di là degli obiettivi. Il 30 dicembre scorso ci è stato detto che ci sarebbe stato uno scostamento più ampio, del 2%. Ora siamo a 2,5 punti. Quello che diciamo è che bisogna fare luce su ciò che è accaduto in Spagna nel 2011, perché si tratta di una deviazione seria, grave. Dobbiamo sapere l'origine e la natura dello scostamento, se si tratta di un fatto temporaneo o strutturale, e quali misure si intende adottare sul 2012 per rimediare alla situazione. Nous devons savoir l'origine de ces déviations, la nature de ces déviations, est-elle structurelle, est-elle temporaire? Quelles sont les mesures à envisager dans le cadre du budget 2012 pour remédier à cette situation? La ristrutturazione del debito greco resta al centro dell'attenzione. C'è sempre incertezza intorno all'erogazione dei 130 miliardi di aiuti ad Atene. I paesi europei a AAA, i cosiddetti falchi dell'Eurozona, sembrano molto cauti nell'attendere le riforme e le misure promesse. Sentiamo l'analisi di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Il maggio 2010... Nessuno poteva più pensare che ci fossero ancora dei problemi per la Grecia. Perché? Perché Atene era salva. L'Unione Europea aveva dato 110 miliardi di aiuti, fondo monetario un terzo, e tutti erano tranquilli. Cioè il messaggio era: non è possibile pensare che un paese dell'Eurozona possa fallire. Questo avveniva nel maggio 2010, sembra un'eternità ma è solo un anno fa. Il 26 ottobre quasi 14 mesi dopo, la questione si cambia completamente. In 4 giorni si fanno 2 summit europei proprio sulla Grecia. I paesi decidono di salvare la Grecia con i 130 miliardi di cui ancora oggi non abbiamo deciso quanti ne arriveranno davvero. Ecco, perché anche questa parentesi si è aperta nelle ultime ore, infatti. Esattamente, sembra che insomma i falchi, come vengono definiti quelli dei paesi a AAA, non vogliono dare i soldi finché non vadano in porto 2 elementi, le riforme, i tagli promessi e lo scambio, il PSI, la partecipazione del settore privato. Non basta approvare una legge, bisogna che poi la si applichi, venga effettivamente fatto quello che c'è scritto nel decreto. E questo molto spesso la storia greca insegna che non è stato fatto. E quindi il mercato è molto sospettoso e così pure anche i partner europei. Ecco perché siamo arrivati alla tranche degli aiuti. Prima fai quello che hai promesso e poi arriveranno gradualmente i soldi. Ma tutto centellinato. Ecco perché tutta questa questione, come dicevo, il 26 ottobre si era deciso di salvare, ma abbiamo deciso di cambiare prospettiva. Cioè, a quel punto si accettava che la ristrutturazione, chiamiamola ristrutturazione, una parola forse meno inquietante, ma è sempre un default, cioè si perdono dei soldi rispetto a dei bond che è acquisito. Il debito greco, che tante difficoltà sta creando al paese e all'intera eurozona, oltre alle grandi dimensioni, è caratterizzato da una struttura molto complessa. Ne ha fatto per noi una descrizione molto efficace Luca Massironi, consulente per Eidos Partners Italia. Sentiamo. Noi sappiamo che il debito ad oggi in Grecia è circa 350 miliardi di euro ed è composto per 76 miliardi dai loans che sono stati erogati lo scorso anno e anche durante il 2011 dall'IMF. Dal Fondo Monetario, se intanto esatto. Contestualmente faccio delle traduzioni, certo, quando riesco. Mi scusi, dal Fondo Monetario e dall'Unione Europea. E questo porta a un 278 miliardi di debito che sono per circa 60 sul bilancio della Banca Centrale Europea e delle altre banche centrali che compongono l'Eurozona. Che hanno rinunciato agli interessi ma non possono integralmente rinunciare alla restituzione dei titoli perché altrimenti esatto. Questo rappresenterebbe un prestito, non possono farlo, ma poi su questo aspetto esatto. Ci torneremo. Su questo qui. Ritorneremo perché è stato importante proprio ieri con la pronuncia dell'ISDA in quanto non scatta il cosiddetto credit default per il momento. Il resto invece del debito greco è composto per circa 15 miliardi da cosiddetti T-bill, cioè in sostanza i bot simili ai bot italiani, che quelli avendo una scadenza inferiore all'anno non sono soggetti in alcun modo al PSI o ad altre forme di ristrutturazione. Sono quindi circa 16 miliardi, appunto, come si diceva. 16 miliardi, sì. Di questi rimangono 203 miliardi di bond in circolazione, che sono per 177 miliardi titoli governati dalla legge greca. E 29 miliardi invece sono governati dalla legge internazionale, che siano svizzeri piuttosto che inglese o d'altro. Quindi, per i quali la scadenza per un'eventuale ristrutturazione, conversione o adesione volontaria mi pare che sia fine marzo. Per quelli governati da legge internazionale sì, e poi il regolamento dell'operazione eventualmente verrà fatto verso la metà di aprile. La crisi greca quindi non riguarda solo i palazzi europei e le banche, le decisioni sulla ristrutturazione del debito di Atene iniziano a far sentire le loro conseguenze anche ai piccoli risparmiatori che detengono bond ellenici. Riguarda infatti anche loro l'offerta lanciata dopo gli accordi delle scorse settimane che prevede per chi aderirà uno scambio, cioè lo swap delle obbligazioni attualmente in possesso con titoli a scadenza prorogata e un taglio, cioè un haircut del 53,5% sul valore facciale del bond corrispondente ad una perdita sul valore di mercato fra il 75 e l'80%. Le banche hanno iniziato a mandare proprio in questi giorni le lettere che segnalano la possibilità di aderire all'operazione. La situazione che riporta alla mente i ricordi di quanto accaduto in un passato non troppo lontano con i bond argentini. Come può comportarsi il piccolo risparmiatore? Sentiamo sempre Luca Massironi. Circa 11.000-12.000 piccoli investitori detengono ammontari più o meno piccoli rispetto a quelli che sono invece detenuti dai grandi investitori, fondi, hedge fund, eccetera. In particolare poco meno di 10.000 investitori detengono un ammontare nominale inferiore a 100.000 euro. Ora, noi sappiamo che in quasi tutti i paesi e anche in Grecia esiste una tutela per il piccolo risparmiatore, ma questa è a valere direttamente sul deposito che l'investitore ha presso la banca, quindi quello si può. Come funziona da noi il fondo interbancario di tutela dei depositi? Esattamente la stessa cosa, per cui all'interno della procedura di scambio, di PSI, di default ordinato, chiamiamola come vogliamo, non è possibile discriminare in alcun modo le varie tipologie di investitori. Quello che si può fare al limite è alleggerire il carico che sopporta il piccolo investitore, nella fattispecie sarà soprattutto l'investitore domestico greco piuttosto che quelli internazionali, eventualmente agevolandolo dal punto di vista fiscale o in altre maniere nei mesi e negli anni futuri. Però questa è una cosa che esula totalmente da quello che è lo scambio proposto dal Ministero delle Finanze. Quindi sostanzialmente gli investitori hanno solo due scelte da compiere, aderire o non aderire. Nel caso dell'investitore che chiamava prima, in pratica lui ha un bond molto molto breve perché scade a maggio. È molto ravvicinato nella scadenza, sì. Quindi direi che lui non ha lo 0% di probabilità di recuperare il 100, però ne ha relativamente poche. In pratica lui riuscirebbe a recuperare tutto il patrimonio investito in questo titolo nel caso in cui l'adesione al PSI fosse molto elevata, diciamo superiore al 90%,